Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Roma e un saluto da Milano. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che K è in gita a Roma, la faccia nostra, noi siamo qui in asilo. Calma, non sono mica in gita, sono in missione per conto dell'amministratore delegato A. Una missione per cui non sono tenuto a parlare perché è molto riservata. Però posso dire una cosa, quindi... che è molto straniante, K, stare all'asilo da solo e parlare con te come se tu fossi qui. È una cosa Drago, d'altra parte la telepatia lo sappiamo, no? Che è una cosa straniante. Straniante. Chi non si sente strano quando fa la sua attività di telepatia? La telepatia non bisogna abusarne. Come? Tipo piegare i cucchiai. Secondo me è un po' come l'elettrosmog. La telepatia? Cioè fa male al cervello. Certo, dici di no. Star tutto il giorno in telepatia, in modalità telepatia. Ogni tanto mi manchi, sento dei. Questa telepatia funziona oggi, però tu c'hai fidati. Un po' dei buchi. Io ci sono, i buchi no. Però comunque bisogna chiederlo a chi se ne intende, Drago. Non è che puoi buttare. Per me la telepatia è una cosa che abbiamo tutti dentro, no? La telepatia? Ce l'abbiamo dentro. Sì, Drago, dentro di noi siamo come pieni di telepatia. Questa non l'ho mai sentita, siamo pieni di telepatia. Cioè, non è che siamo proprio pieni di telepatia, forse ne abbiamo solo un po'. Forse qualcuno ce l'ha, altri no, capito? E noi ce l'abbiamo, evidentemente. Comunque, grazie alla famosa software house che ci ha messo a disposizione questo nuovo software telepatico, possiamo sfruttare la telepatia naturale che è in noi. Comunicare in tempo reale da Roma a Milano senza l'uso di cavi, microfoni, senza cuffie, senza perfino l'uso della voce. Esatto, perché forse non tutti sanno che io e K in questo momento non è che stiamo parlando. Voi sentite le voci, ma in realtà noi stiamo solo pensando. Ascoltiamo l'uno il pensiero dell'altro. Che rottura di coglioni. Ma cosa? Niente, stavo solo pensando. Ma stai attento a pensare perché io sento tutto. Ah, è inconvenienti della telepatia, è certo. Sì. Questo è molto divertente. Oggi all'asilo di Roma si festeggiano due ricorrenze esotiche, per cui praticamente non ci sono lezioni, ma solo grandi mangiate di piatti tradizionali. Ma come? Niente lezioni? Sì, perché è successo? Guarda, ci sono assaggi di cibo del Chad, della Liberia, del Mali, della Mauritania, dello Zambia. Scusa, che piatti sono? Riso. Riso e basta? Sì, perché sarebbe riso e carne, tipo la paella ma senza pesce. Appunto, riso e carne. Sì, però solo che la carne è da immaginare, capito? Mi hanno detto che in Africa si usa così, si immagina. Ma scusa, che ricorrenza si festeggia oggi? Non ho capito. È il 25 maggio, giorno della libertà africana. La libertà africana. Così, sì. È una specie di festa della speranza, insomma. Siamo sicuri che quelle nazioni poi siano libere? Cos'è? Liberia? Non dice il nome. Mali? Non lo so, perché il riso non è granché, però la carne, Drago, la carne è... È buonissimo. Ma scusa, ma se non c'è la carne? Sì, ma io ho un'ottima immaginazione. Nell'aria si insinua un profumino. Mi stuzzica il naso, ma cos'è? Sa un po' di letame, mi viene una fame immensa, aspetta, non me. Eccomi in fila ad aspettare, si fanno scommesse sul menù, chi dice fagioli, chi dice banane, ciliegie, biscotti, coniglio di cane, ma il cuoco in vacanza c'è una sola pietanza, finocchi cotti, finocchi cotti, finocchi cotti per me. Per tutti voi, perché i finocchi cotti sono un fatto collettivo. E ora, bambini, ricreazione. Oh, bambino Alberto, allora hai mangiato anche oggi? Sì, che ho mangiato. Soliti finocchi cotti. Che domande, per forza. Dai, li mangiano tutti, li mangi anche tu, mi sembra giusto. E soprattutto mi sembra democratico. Allora. Sì, va bene la democrazia, solo che... Solo che cosa? Oggi in mensa c'era un bambino nuovo che non li ha mangiati. Uno di quei privilegiati che saltano il pranzo perché non pagano la retta. Deve essere uno di quelli di qualche religione che vieta i finocchi. Ma non ci sono religioni. Non esistono religioni che vietano i finocchi, bambino Alberto. No, i finocchi come verdura, dico. Per il resto non sono argomenti da bambino, quindi lasciamo perdere. Cosa? I finocchi? I finocchi. Ma come non è... non è un argomento da bambino. No, sì, in qualche ma maniera. Ma se sono sì, i protagonisti della mia vita. Vabbè, sì. Me li danno da mangiare tutti i giorni, sì, saranno pure un argomento da bambino, no? Sì, certo, comunque quel bambino non li ha certo saltati per motivi religiosi, bambino Alberto. Sarà intollerante. Cioè, intollerante vuol dire intollerante, cioè, razzista, cioè. No, intollerante vuol dire anche che non può mangiare i finocchi perché gli fanno male. Tutto ah, lì. Gli fanno male? Eh sì. Vabbè, allora sono intollerante anch'io, no? Mi fanno vomitare, c'ho, sì, scusate, c'ho anch'io il... L'intolleranza, però è quello, è diciamo, figuratamente ti fanno vomitare, no? In modo figurato. Cosa? Il vomito? Sì, non è che vomiti davvero, ti fanno vomitare nel senso che non ne vai pazzo, no? Per chi ha delle intolleranze alimentari, invece, certi cibi sono proprio impossibili da mangiare, capisci, bambino Alberto? Causano vere e proprie crisi respiratorie o cardiache o intestinali, insomma, stanno capito, male. No, ho capito adesso, cioè, alla fine mi tocca continuare a mangiare quella schifezza. Temo di sì. E vabbè, e che cosa ha mangiato il bambino intollerante invece dei finocchi? E beh, niente, c'erano solo i finocchi. Se sei intollerante, ti prendi le tue responsabilità. Vabbè, ma poveraccio, non tolleri? Oggi niente pranzo. Vabbè, potevano dargli da mangiare qualcos'altro. Beh, però sarebbe stato un po' difficile da mangiare qualsiasi altra cosa. Visto che sto bambino è tenuto in vita da un respiratore, dalle flebo. Ma come? E beh, così è. Ma poverino, ma cosa ci fa all'asilo? Respiratore, flebo, perché non è in una clinica o a casa? Che no, genitori... perché no, i suoi non lo vogliono vedere per non soffrire. Ma come? Beato lui, tutte le fortune. Cosa dici? Niente finocchi cotti, niente genitori assistenti. Ma bambino Alberto, cosa dici? Beh, forse stavolta ho esagerato. Direi di sì, dai, no, niente bambini, cioè, cosa adesso vuoi mi dire? Sento quasi in colpa. Ma dici che vado all'inferno? Ma no, ma cosa dici? Dai, non esiste l'inferno. Ma non esiste? Ma no, o almeno io, cioè, credo che non esista o non credo che esista, fai tu. Poi sai com'è, nessuno è mai tornato a raccontarcelo, quindi tutto è possibile. Non mi prendere in giro, come cosa? No? E quel tipo lì di Firenze? No, non il Pacciani, quello dell'olio. Ah, Dante, ma vabbè, quello dell'olio. Ma sì, ma lui se l'ha immaginato l'inferno, mica c'è stato davvero. Ah no? Vabbè, ma Suor D'Antonio ci parla sempre dell'inferno. Eh beh, il suo ruolo, No, ci dice che andiamo all'inferno se diciamo le parolacce. Sì. Che andiamo all'inferno se prendiamo in giro i bambini handicappati. Un po' ha ragione. Andiamo all'inferno se ci tocchiamo. Vabbè. Ci tocchiamo che poi, non capisco, adesso non ci si può neanche toccare. Ma no, ma vabbè, ma tu non pensarci, sono un po' le manie delle suore quelle lì, usano dei verbi così. E intanto ci dice, allora andate all'inferno in mezzo alle fiamme, in mezzo ai diavoli. Beh, ma ti posso assicurare, bambino Alberto, che ci sono grossi dubbi sull'esistenza dell'inferno, No, quindi... davvero? Sì. Ma così mi rassicuri, meno male. Beh, certo. Perché anche a me sembrava una cosa un po' esagerata. Ma sì, dai, tranquillo. Tra le fiamme, per l'eternità, per così poco. Va bene un po' di purgatorio, qualche menata, ma l'inferno? Volentierissimo! Gildo! Madonna, ma mi hai fatto Gildo? Spaventare! Volentierissimo! Vabbè. Volentierissimo, ma. Senti un po', Gildo, tu credi all'inferno? Volentierissimo! Ah, ci credi? Volentierissimo! Cioè, dopo che tu sei morto, vai all'inferno? Volentierissimo! Ah, vabbè, allora contento tu. Ma non ho capito, K. Cosa? Questo software telepatico che stiamo usando con te a Roma e a me a Milano, ho notato che funziona bene, soprattutto funziona sempre. Cioè, l'altro giorno c'era il pisolino e tu mi sei venuto a disturbare con la telepatia, eccetera. Però durante la ricreazione tu non ci sei. Cioè, anche la telepatia contro la ricreazione non può nulla. Cioè, come ma funziona? C'è la pausa sindacale, Drago. Ma in che senso la pausa sindacale? Nel senso che qui a Roma staccano tutti i collegamenti in modo da permettere una ricreazione sindacalmente corretta. Che insomma, capito. Ci vuole, no? Blackout sindacale. Capito, capito. Qui a Roma il sindacato va forte, nessuno osa schierarsi contro. Ci mancherebbe pure, ognuno deve fare il proprio mestiere, il mestiere del sindacato è quello di... Di? Sai che al momento mi sfugge. Però non sono l'unico, Senti qua il bambino terribile Renzi. Qual è il problema? Qual è la fregatura? È che i ragazzi di 30 anni non è che hanno oggi un grande futuro davanti nel mondo del lavoro. E di ste robe perché non si parla? Perché grandi macchine organizzative che fatturano centinaia di milioni di euro, quali sono i nostri sindacati, non vanno su questi temi? Beh, raga, il doppio kazoo è bellissimo, Vai, vai, fai il solo. Adesso col kazoo in bocca di l'indirizzo della mail. Vai. Vai. Ecco. Ne arrivano un sacco di mail così. Tanto non arrivano comunque. Sta zitto. Lascia andare il solo, vai. Sta zitto.